Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori da Deborah Rosciani. Da oggi e per qualche giorno poi vi lasceremo in pace, speriamo per un po' torniamo sul pacchetto anticrisi del governo e tutta la rosa delle principali questioni che riguardano le famiglie italiane. Il provvedimento ha avuto il via libera dal Parlamento settimana scorsa, dal Senato, e adesso tutti gli interventi contenuti sono definitivi e certi per la platea dei destinatari. Da oggi con il Sole 24 Ore inizia la pubblicazione delle guide al decreto, le uscite saranno 5, una al giorno da oggi a venerdì, un percorso che seguiremo anche noi di Salva Danaio, e oggi cominciamo con il vostro argomento, vostro malgrado, nostro malgrado, preferito: i mutui e il tetto del 4% sui tassi. Domani proseguiremo con le novità sulla commissione di massimo scoperto. Oggi dunque torniamo al tetto del 4% per gli interessi sui mutui a tasso variabile. Ci sono molti dubbi da sciogliere, soprattutto occorre dare delle spiegazioni a tutti coloro che si attendevano l'applicazione di questo risparmio a partire dal 1 gennaio di quest'anno e invece devono constatare che le banche sono ancora in ritardo nell'applicazione del provvedimento. Ci sono delle ragioni, delle attese per altri provvedimenti in arrivo. Di tutto questo stamattina parleremo con il nostro Maximilian Cellino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, che ormai se li sogna anche di notte. Maximilian, buongiorno. Sì, belli incubi, buongiorno. Gli incubi, mutui, tassi e quant'altro, e forse le sue giornate sono contrassegnate anche da incubi di questo tipo. Buongiorno a Massimo Roccia, direttore centrale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Dottor Roccia, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi, ci potete anche scrivere alle 349 238 6666. Entriamo nel vivo del nostro argomento fra qualche minuto, non prima di avervi raccontato quello che accade stamattina in borsa. È una brutta giornata, ancora una volta segni meno ovunque, e anzi i cali sono anche piuttosto pesanti, perché abbiamo già ribassi di 2,5 punti su Londra, su Francoforte, su Parigi che perde un po' di più, e anche Milano è tra le peggiori piazze d'Europa. Il calo in questo momento è del 2,72%, tanto per così darvi un po' la misura di quello che sta accadendo. A Parigi, BNP Paribas meno 12%, il Crédit Agricole meno 8,74%, Société Générale meno 7,57%, Commerzbank a Francoforte meno 7%, Barclays a Londra meno 11,5 punti. Ecco quello che succede, vanno giù ancora pesantemente i titoli del settore bancario. Infatti Piazza Affari è guidata al ribasso da Unicredit meno 6%, Intesa San Paolo meno 4,55%. Non migliora l'umore intorno a questo settore da parte degli investitori, e tutti i titoli continuano ancora a scendere pesantemente. Tra i titoli invece in positivo in questo momento a Milano Parmalat, che sta andando completamente per conto suo, più 2,37%, unico titolo positivo in questo momento a Milano. Seguono a distanza Finmeccanica, che è quello che perde meno 0,3%, Mondadori meno 0,4%, Snam Rete Gas meno 0,5%, Terna meno 0,5%, Lottomatica meno 0,6%. Insomma, la settimana parte male e speriamo, insomma, che vada un po' meglio nei prossimi giorni, ma siamo ormai abituati a questo tenore, non ci sorprende più di tanto. Oggi occhi puntati ancora una volta sul mercato dell'auto, anche qua siamo in attesa del pacchetto di sostegno al settore che il governo dovrebbe varare nel giro di qualche giorno. Stasera conosceremo a quanto ammonta la crisi in gennaio, perché avremo il dato sulle matricolazioni in Italia e si prevede un dato molto, molto pesante. Direi di lasciare la borsa, euro su dollaro, così tanto per darvi un'indicazione anche del movimento sul mercato valutario, a 1,2742, il petrolio stamattina in Asia era sui $41 al barile. Direi di lasciare la borsa, i mercati, andare subito al tema di oggi. Ritorniamo sui mutui nel nostro paese, come stanno andando le cose, soprattutto a che punto è l'applicazione da parte delle banche italiane del provvedimento del governo che fissa sui mutui a tasso variabile il tetto del tasso di interesse al 4%. Febbraio è arrivato, ma sul famoso tetto del 4%, voluto dal governo a sostegno dei mutuatari in difficoltà col pagamento delle rate, ancora tutto tace. Tace il governo, che dovrebbe varare i regolamenti attuativi per consentire alle banche di iniziare a rimborsare i propri clienti. Tace l'Agenzia delle Entrate, cui spetta il controllo sulla sussistenza dei requisiti dei potenziali beneficiari del tetto. Tacciono gli istituti di credito, che senza istruzioni precise non prendono iniziative in questo senso. E tace tacciono, per fortuna, anche le proteste, perché la rata, che era diventata insostenibile lo scorso autunno, comincia ora a scendere per effetto del calo dei tassi. L'Euribor si sta infatti allineando al tasso BCE, intorno al 2%, e se come sembra la Banca Centrale Europea decidesse di tagliare ancora il costo del denaro, un ulteriore calo potrebbe arrivare a primavera. Intanto però il tetto del 4% introdotto dal governo con il pacchetto anticrisi varrà per tutto il 2009 e anche se al momento si è ridotta la platea dei destinatari, vale comunque la pena fare un punto su coloro che sono i potenziali beneficiari dello sconto. Il tetto si applica a tutti i mutui prima casa a tasso non fisso, accesi prima del 31 ottobre 2008, che al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso inferiore al 4%. Per tutti gli altri mutui, il tetto previsto dal governo dovrebbe essere costituito dal tasso di interesse complessivo, cioè comprensivo di spread, versato in corrispondenza della prima rata. Ancora irrisolti, invece, i dubbi sul tasso misto. Rientra o non rientra? E in caso di surroga o rinegoziazione, quale data bisogna prendere in considerazione per godere del tetto? Un chiarimento è arrivato circa i mutui oggetto di cartolarizzazione, che secondo una circolare del Ministero rientrerebbero nel tetto. Insomma, se volete conoscere tra l'altro ancor più nel dettaglio tutta la misura del governo sul tetto del 4%, sicuramente troverete molte informazioni nella prima guida pubblicata questa mattina dalle Sole 24 Ore, gran parte della quale è stata scritta dal nostro Maximilian Cellino. Maximilian, tra l'altro il decreto introduce anche di questo abbiamo parlato più volte, l'altro elemento di novità, l'obbligo per le banche di presentare nella rosa della propria offerta commerciale anche i mutui a tasso variabile indicizzato ai tassi BCE. Magari ci lasciamo questo argomento per la seconda parte del nostro programma. Andiamo invece allo sconto sulle rate da pagare sui mutui a tasso variabile. Diciamo che i clienti potenzialmente interessati a questa misura devono ancora aspettare un pochino. Sì, non tutti, perché mi risulta che ci sia un qualche caso di alcune banche che già si sono mosse per conto loro e hanno già applicato il tetto del 4%. In che maniera l'hanno applicato? Oltre alla normale rata da versare secondo l'importo predefinito dal contratto, insomma l'importo contrattuale con un tasso superiore al 4%, hanno ricevuto anche contestualmente un accredito con la differenza che poi la banca andrà a richiedere allo Stato e attenderà appunto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per sapere come riavere questi soldi dallo Stato. Per gli altri invece c'è un certo ritardo, un ritardo che già la circolare ministeriale che precedentemente abbiamo citato già prevedeva, perché la situazione non è diciamo semplicissima dal punto di vista tecnico l'applicazione del 4%. La circolare ministeriale stabiliva che un tempo ragionevole poteva essere entro e non oltre fine febbraio. Staremo a vedere, abbiamo più o meno ancora un mese per vederci applicato questo sconto, sempre ovviamente quando ci spetta. Sentiamo allora Massimo Roccia dall'ABI quali sono le risposte che il sistema bancario sta dando in questo momento a tutti quei clienti, dottor Roccia, che non ascoltano Salvadanaio e che magari non leggono molto volentieri i giornali finanziari ed economici, ma che dal telegiornale sentono che è in arrivo questa misura e quindi vorrebbero già quantificare il loro risparmio. Allora, ci può dare un po' la presa di posizione ufficiale dell'ABI sulle ragioni di questo ritardo nell'applicazione del decreto, chiamiamolo così, il decreto Tremonti, anche se poi non è che questa misura porti esattamente il suo nome. Dottor Roccia. Ma le banche stanno aspettando che l'Agenzia delle Entrate emani questo regolamento applicativo, che serve ad individuare con esattezza i beneficiari e ad evitare quindi di scrivere qualche milione di lettere nei confronti di clienti che potrebbero invece non essere titolari del beneficio. Questo serve a non disturbare, diciamo così, inutilmente i clienti e attribuire in modo automatico il beneficio a quei clienti che invece sono appunto titolari di abitazioni che rientrano nella sfera della legge. Purtroppo una cosa di questo tipo, un provvedimento di questo tipo non è proprio semplicissimo nell'applicazione, ma i clienti possono stare assolutamente tranquilli, perché nel momento in cui riceveranno questo contributo sarà riaccreditato con la stessa data di pagamento della rata, eventualmente di gennaio, di febbraio o di marzo a seconda dell'entrata in operatività, e quindi loro non avranno non solo nessun costo, ma neanche nessun costo, diciamo, implicito da interessi, perché hanno pagato in un'epoca precedente. Anche quindi, perché questo è un punto che con chiarezza viene espresso anche dal decreto, no? Secondo il quale ciascun mutuatario deve essere tenuto indenne, leggo testualmente, da ogni effetto legato a ritardi. Esattamente, quindi i clienti non debbono fare nulla, debbono soltanto attendere che o vada in pagamento la loro rata, nel caso in cui sia trimestrale o semestrale la periodicità di pagamento del mutuo, oppure attendere che sia rimborsata la componente di sconto e di contributo per una rata pagata a gennaio o febbraio. Ecco, come, che giudizio dà, dottor Roccia, di questa banca che si è mossa e ha già rimborsato ai propri clienti l'eccedenza in questione? Si tratta di ING Direct, Mutuo Arancio, dobbiamo dire, tanto ci sembra di capire che lo abbia fatto solo lei in questo momento. Ma il problema è molto tecnico, quindi può darsi che una banca che è entrata da pochi anni sul mercato abbia un numero abbastanza piccolo di operazioni che rientrano nel beneficio e quindi da sola ha potuto individuare chi sono i beneficiari dal punto di vista della fattispecie soggettiva e oggettiva, quindi dell'immobile. Quindi noi ovviamente siamo favorevoli a questa cosa che dà un maggior beneficio dal punto di vista della velocità ai clienti, ma ci sembra non certamente critico se il cliente aspetta qualche settimana e le cose vengono fatte nel modo più corretto. Allora, aspettiamo dunque questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, lo abbiamo invocato anche tanto la settimana scorsa, ancora Maximilian non è arrivato. Tu hai avuto modo di sentirli circa i tempi? Si parlava ovviamente di qualche settimana, però è sempre molto complicato sapere i tempi di uscita. Piuttosto, magari anche a Roccia potremmo anche chiedere invece cosa pensano degli altri dubbi da sciogliere. Cominciamo allora a verificarli. Quali sono, Maximilian? Gli altri dubbi da sciogliere sono i mutui ibridi e anche il metodo di calcolo, come spiegava prima perfettamente la scheda, quando viene preso diciamo il metodo di calcolo del tasso iniziale per i mutui che hanno subito, anzi che hanno usufruito di sostituzione o surroga. Ecco, questi sono due nodi abbastanza importanti che credo che l'Agenzia delle Entrate non scioglierà. La prima circolare ministeriale non ha sciolto, qualcuno dovrà pensarci. Immagino. Dottor Roccia, allora, le norme del decreto legge valgono per tutti i mutui a tasso non fisso. Esatto, quindi come interpreta la misura? Che la fattispecie principale è un classico mutuo a tasso variabile, mentre va regolamentato il caso dei mutui a tasso misto, che significa quei mutui dove il cliente ha un'opzione periodica di modifica del tasso, può decidere di passare semestralmente, annualmente da un fisso a un variabile, o infine quei mutui che sono a rata fissa e durata variabile che hanno quindi dentro una altra componente di variabilità. Quindi per questi mutui non ci sarà un automatismo nella questo restituzione dell'eccedenza? Questo non lo possiamo dire noi, ma sarà il regolamento, appunto quello che stiamo aspettando da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a determinare come dovranno essere trattati. Ovviamente le banche non hanno nessuna ragione e interesse ad escludere nessuno, ma applicano la legge che è disposta dallo Stato. Per quanto riguarda invece la meccanica del contributo, forse vale la pena spiegarla a tutti quanti, questo è un provvedimento il cui obiettivo è quello di immunizzare i clienti dall'aumento dei tassi rispetto al tasso originario. Quindi i clienti che hanno stipulato mutui la cui prima rata prevedeva un tasso sotto al 4%, per questi clienti la rata 2009 sarà calcolata al 4%, anche se il tasso contrattuale 2009 fosse più alto. Quindi questo è il beneficio per mutui stipulati sotto al 4%. Per mutui stipulati ad un tasso superiore al 4%, ma per il quale il tasso del 2009 è maggiore del tasso originario, si torna al tasso originario. Quindi la meccanica del provvedimento è quella di rendere indenni i clienti italiani dagli impatti sulla rata dell'aumento dei tassi contrattuali sui contratti a tasso variabile. Tutto chiaro, Maximilian? Facciamo un esempio, quindi se uno aveva un mutuo a suo tempo di quelli fatti nel 2005 e aveva un tasso iniziale del 3,5, poi è arrivato a un certo punto, lo ha surrogato prendendo un mutuo migliore magari nel 2008 e come tasso iniziale del mutuo surrogato aveva qualcosa come il 4, il 5% addirittura, perché in quel momento erano molto alti, qual è il mutuo secondo lei contrattuale? Che va considerato, quello originario o quello surrogato? Quello che è subentrato? Il mutuo surrogato è un nuovo mutuo, quindi in teoria quello a cui dovrebbe farsi riferimento è l'operazione che può beneficiare del provvedimento, che è quella quindi nuova, cioè quella in essere alla data che viene determinata come termine dal provvedimento, ovvero ottobre 2008. Non crediamo ci siano spazi enormi per un'interpretazione diversa da questa, ma questo dipenderà di nuovo dal regolamento del Ministero. Insomma, io volevo lasciare in pace per qualche tempo i nostri ascoltatori, invece temo di dover ancora promettere altre, tante altre puntate intorno a questo, almeno forse fino alla fine di febbraio. C'era una questione che mi incuriosiva leggendo il decreto anticrisi, leggendo la guida che è stata pubblicata dal Sole questa mattina, perché ci è sembrato fino a questo momento abbastanza chiaro che, a parte tutte le tecnicalità che dovranno essere ancora definite col provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, l'intervento dell'ABI e quant'altro, che il mutuatario non deve far niente, almeno colui che ne ha diritto, per poter vedersi riaccreditato, no? Questo rimborso, questa eccedenza, chiamiamola come vogliamo. Però Maximilian, nella guida del Sole di questa mattina, pubblica in realtà un facsimile, come dire, di una possibile domanda per il riconoscimento di questo bonus, come lo chiamiamo, una diffida, un invito alla banca ad adeguarsi al limite del tasso del 4%, come dire, suggeriamo, per non saperne leggere né scrivere, di invitare la banca da parte di un cliente. Diciamo una cosa, anche Roccia in precedenza nel suo intervento l'ha sottolineato, che il 4% è automatico. In un passaggio successivo della guida si parla un po' delle mosse che a tutela del cliente. Tra le mosse ovviamente ci sono quello della verifica dei tempi, soprattutto la verifica del contratto per vedere se realmente si ha diritto a questo sconto, e poi si fissa in maniera, diciamo, anche prendendo la circolare, il testo della circolare del Ministero, un termine di qualche mese, non da domani, ma diciamo se alla terza rata del 2009 che non vi è stato ancora accreditato alcunché, forse è il caso di muoversi e di provare a mandare anche un facsimile, un invito alla banca, facendo presente che ancora non si è assolutamente visto niente. È più che altro in maniera cautelativa. Quello che mi preme ricordare è che, se appunto, e non ho motivi di dubbio per, assolutamente, come ha detto in precedenza Roccia, è un provvedimento automatico, non ci deve essere alcuna richiesta da mandare da parte del mutuatario, e io non vorrei ci fosse il meccanismo contrario, cioè per quelli che non hanno mandato alcuna richiesta, anche se ne hanno diritto, non viene accreditato. Questo è quello che io voglio scongiurare, e non credo che avvenga. Non crediamo. L'importante è che si abbia la piena consapevolezza che sia nel diritto di avere questo rimborso o meno, cioè che non si mandi poi una lettera perché si vede che sulla rata non viene riaccreditato niente, o sul conto corrente, ma magari insomma non si è ben chiaro il fatto che non si ha. Esatto, poi magari lì rifacciamo anche un punto della situazione. Abbiamo un minuto di tempo, faccio fare la domanda alla nostra prima ascoltatrice di stamattina, che è Antonella da Latina, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Ci dica tutto. Buongiorno. Ecco, avete in parte risposto a qualche domanda che volevo porvi, però un particolare. Sì. Io ho un mutuo, diciamo, stipulato, lo dico brevissimamente, nel 2001, e praticamente con un tasso di 3,75 pagavo una rata semestrale di circa 3.300 euro ogni 6 mesi, e invece adesso arrivo a 4,8 circa. Che cosa succede? Nel frattempo io ho tolto anche il conto corrente in questa banca, il quale mi è servito soltanto per accedere al mutuo. Sì. E ho tolto questo conto corrente perché costava non poco tenerlo lì solo per metterci i soldi per la rata. E quindi in questo caso, avendo io probabilmente diritto a un rimborso, come posso io usufruire di questo rimborso non avendo un conto corrente? Antonella, accidenti, ci sembra però una questione che la banca potrà risolvere, speriamo, nella maniera più serena possibile, però è un caso abbastanza inconsueto. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, Antonella da Latina ci ha raccontato che, secondo quello che ha potuto ricostruire lei, nel diritto di vedersi riaccreditare da parte della banca l'eccedenza della rata che ha un interesse superiore al 4%, però dice: non ho più conto corrente in quella banca, quindi praticamente con la banca sono un rapporto di mutuo, come faranno a riaccreditarmi questa somma di cui ho diritto? Massimo Roccia dell'ABI. Allora, c'è un ascoltatore che dice: Amedeo da Torino, se non si ha il conto corrente la banca può mandare un assegno a casa o chiedere al cliente le coordinate di un'altra sua banca, mi sembra abbastanza semplice. Esatto, questo tipo di caso non è proprio frequentissimo e quindi non è disciplinato ad oggi, non sappiamo, ma forse no, se sarà regolamentato dentro i decreti del Ministero, ma la strada è questa qui, cioè la banca si fa indicare dal cliente quali sono le coordinate del conto corrente e farà il bonifico a favore di quel conto. Speriamo insomma che il meccanismo non si, visto che già forse le complicazioni vale sono tante... Vale la pena anche ricordare, rispetto al punto che facevamo prima, che il rimborso è automatico, ma forse ci sarà bisogno di un'autocertificazione soltanto per i mutui accesi dopo il 1 gennaio del 2008, perché il database dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulle dichiarazioni, non sarà in grado di censire i soggetti titolari di abitazioni principali prima di quella data. Quindi credo che abbia fatto bene il sole se ha cominciato a toccare questo argomento, che invece è importante perché l'automatismo probabilmente sarà vincolato al database di cui dispone l'Agenzia delle Entrate. Quindi lei si sta riferendo alla lettera di invito alla banca alla restituzione dell'eccedenza di cui parlavamo prima? In sostanza questa potrebbe valere come sorta di autocertificazione con la quale io comunico alla banca: guarda, sono ancora proprietario di questa abitazione come prima casa, per cui io ho diritto a questo rimborso? No, io sto dicendo che mentre il database che l'Agenzia delle Entrate le trasferirà alle banche per attuare il provvedimento copre tutti i mutui sicuramente fatti fino al 31 dicembre del 2007, e ovviamente non è presente dentro le dichiarazioni un dato che riguarda ancora il 2008, perché ancora non ci siamo arrivati a maggio del 2009, e quindi credo che ci sia da regolamentare questa parte, cioè i mutui accesi nel 2008. Perfetto, allora ribadisco, dovremo ancora rincontrarci un'altra volta qua tutti insieme per tornare a fare il punto della situazione. Ahmed da Ravenna, lei cos'è successo? Buongiorno. Sì. Io 4 anni fa ho stipulato un mutuo a tasso variabile. Sì. E Ahmed... Pronto? Sì, ci siamo, Ahmed. Ho stipulato un tasso variabile... Ahmed, sì, deve terminare la sua domanda, se no siamo dietro a lei tutta la mattinata, ci dica. Va bene. Ho stipulato un tasso variabile nel 2000, 4 anni fa. Nel 2008 sono passato a tasso fisso con un'altra banca, praticamente ho fatto una surroga. Sì. Voglio sapere se mi conviene tornare al variabile. E se ho diritto anche io al tetto del 4% variato con la legge anticrisi? Allora, Ahmed, io la ringrazio. Beh, intanto se torna al variabile, diciamo che è inutile fare ricorso al provvedimento anticrisi, però teoricamente Maximilian, no? Perché sarebbe un mutuo nuovo. Sì, vale per tutti i mutui non fissi, quindi il suo è fisso, accesi prima del 31 ottobre 2008. Lei può tornare al variabile se le fanno una buona offerta. Attenzione, questo non è molto semplice adesso, però deve stare attento, perché ci sarà stato un motivo per cui lei è passato dal variabile al fisso nel 2008, cioè che la sua rata si era cresciuta moltissimo e quindi aveva probabilmente avuto qualche difficoltà in più a pagarla. Adesso, se lei torna al variabile, trova rate molto basse, perché i tassi sono bassi, ancora più bassi, anzi sui livelli del 2004, di quelli all'inizio quando lei l'ha fatto. Esattamente. E però niente esclude che in un futuro questi tassi potranno tornare a crescere quanto, forse no, forse sì, forse anche di più rispetto ai picchi toccati nello scorso ottobre. Quindi se lei decide di tornare indietro sui suoi passi e rifare ancora una volta il variabile, deve essere pronto a sopportare un rialzo della rata, cosa che forse non è riuscita a sopportare nell'ultimo anno. E qui ancora una volta dovremmo ribadire le nostre raccomandazioni sulla scelta del mutuo che fa il caso nostro. Non inseguiamo, come se fosse chissà che cosa, solamente il tasso di riferimento. È chiaro che è un aspetto importante, sarà anche il più importante, ma guardiamo prima di tutto la sostenibilità della rata, per cui se il tasso fisso, che magari può anche essere un po' più alto, è adesso più alto sicuramente di quello variabile, ci mette però al riparo dalla volatilità che abbiamo visto negli ultimi mesi e ci mette al sereno, insomma in una condizione di serenità per 10, 20, anche 30 anni, allora scegliamo quello. Dipende insomma da quali sono le nostre condizioni finanziarie, dalle prospettive di crescita del nostro reddito, e quindi ci sono tanti aspetti da considerare. Non focalizzate esclusivamente la vostra attenzione sul tasso. Dottor Roccia, prima del provvedimento anticrisi, lo scorso anno per tanti mesi abbiamo parlato anche della convenzione convenzione ABI, Ministero dell'Economia, anche lì un altro intervento per limitare i rialzi eccessivi delle rate per tutti coloro che avevano il mutuo a tasso variabile. 50.000 famiglie italiane hanno chiesto di aderire alla famosa convenzione ABI Tremonti, che avrebbe permesso anche in questo caso da gennaio di quest'anno di riportare il livello dei tassi su quelli del 2006. Per chi ha aderito alla convenzione adesso non, teoricamente non cambia niente, nel senso che anche queste famiglie avrebbero il diritto al riconoscimento di questa, del provvedimento del 4%. Assolutamente sì, queste famiglie avranno diritto al riconoscimento del contributo per la parte di tasso superiore al 4% nel 2009, perché il contratto non si è modificato nella sua componente di tasso di interesse, ma è soltanto stato modificato nella componente, diciamo così, di rimborso, prevedendo il debito, il cosiddetto debito accessorio. Quindi questi clienti beneficeranno di questa agevolazione in pieno, e forse vale anche la pena dire che comunque il mercato sta dando un altro grosso segnale di vitalità e di dinamicità di scelta da parte dei clienti, perché nel secondo semestre del 2008 siamo arrivati a toccare un terzo, il 34% per i mutui di sostituzione, il che vuol dire che sta crescendo la cultura da parte dei clienti sulla scelta del mutuo, e che molte persone si sono mosse da un'operazione all'altra alla ricerca di un'operazione più confacente con il proprio equilibrio finanziario. Anche se in realtà magari adesso le banche invece cominceranno ad essere un po' più problematiche nella disponibilità di credito, lo cominciano ad essere per la verità già da un po' di tempo, hanno cominciato ad esserlo già da un po' di tempo, Maximilian, e tra l'altro da quello che abbiamo potuto appurare anche nelle nostre così indagini a microfoni spenti, chiedere una surroga in questo momento adesso non è che sia in realtà un'operazione poi così, non dico facile, ma anche valutare la convenienza economica... com'è? È complicato? Ma tecnicamente io credo che sia facile, insomma, è un meccanismo che ha avuto un avvio abbastanza complicato, ma adesso penso che i meccanismi, gli ingranaggi si siano oliati. No, l'ingranaggio è oliato magari, ma la convenienza economica. Tecnicamente che dico, Però dal punto di vista economico io non lo so, non so se sia tanto, tanto conveniente, ed è quello che stavo cercando di dire anche prima ad Ahmed, perché quello che vedo adesso, le banche hanno in questo primo scorcio del 2009 alzato moltissimo il prezzo dei propri mutui, cioè quello che si chiama spread. Aspetta lì perché c'è Massimo da Napoli. Massimo, mi sa che lei voleva arrivare proprio a questo punto, vero? Sì, certo. Buongiorno e grazie di avermi invitato. Allora, il problema è proprio questo. A proposito della surroga, io invito tutti a percorrere questa strada, perché pur difficile può far raggiungere dei buoni risultati. C'è solo il particolare, io ho fatto una surroga ad ottobre del 2008, che chi ha surrogato per paura dal variabile verso il fisso in quel periodo, un po' prima, un po' dopo, di fatto, faccio l'esempio mio, io ero al 5,87 col tasso variabile a ottobre, mi ritrovo oggi col 2,57, quindi tra svantaggio della surroga che c'è, e quindi ripeto, invito tutti a percorrere questa strada, e abbassamento dei tassi, non è stato un affare andarsi a riparare nel fisso in quel periodo. Massimo, certo, magari non lo era per lei, certamente tante altre famiglie che invece non avevano più, come dire, le coronarie abbastanza pronte a sostenere tutto quello che è successo, magari hanno fatto... Sicuramente, ma la storia di Ahmed e quella di tanti altri che si sono trovati in difficoltà è testimonia di come il ruolo di consulenza delle banche, più che per il proprio interesse, dovrebbe essere quello di veramente esaminare il cliente che si ha di fronte, perché per esempio è stranissimo che adesso le banche che fanno, le stesse banche che si agganciano al tasso BCE, hanno aumentato a dismisura gli spread alla faccia della crisi del credito, del venire incontro al cliente. Oggi uno spread, il minimo che si trova è 1,25-1,50. Ma se va bene, Massimo, guardi, se lei va a guardare a pagina 7 della Guida del Sole di questa mattina, troviamo anche spread al 2,5% per le nuove proposte commerciali sui mutui agganciati al tasso BCE. Prego, la lascio concludere, sì. Infatti ho parlato proprio del minimo 1,25. Io, facendo la surroga ad ottobre, ho trovato un mutuo con uno spread allo 0,75. La stessa banca oggi c'è il doppio di spread. Quindi, ripeto, chiedo scusa l'espressione un po' colorita, la faccia della crisi del credito e dell'incontro alle famiglie. Massimo, allora il problema è proprio questo. L'invito, anche se difficile, anche se è lungo, sentire altre banche, se si hanno amici consulenti indipendenti, sentire persone di cultura finanziaria che possono consigliare il reale interesse del cliente, perché fino a che non cambierà questa cosa, le banche non miglioreranno mai la loro situazione, perché la sfiducia verso le banche aumenta sempre Lo sappiamo, certo, lo sappiamo Massimo. Ecco, no, guardi, certo, la devo salutare perché stiamo andando ai suggerimenti per chi è in viaggio. Lei ha perfettamente ragione quando dice individuiamo anche il professionista che sappia darci una consulenza corretta per le nostre esigenze. Il problema è che quando ci scappa la rata di mano e non siamo neanche nelle condizioni emotive per poter gestire nessun tipo di trattativa, hai voglia di trovare il consulente finanziario, ci affidiamo ovviamente magari a quello più vicino a noi, allo sportello bancario sotto casa. Insomma, qua la sua considerazione si presterebbe a tante riflessioni. Eccoci ritrovati, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi questa mattina, le vostre domande sui mutui, il tetto del 4% del governo, ma poi come sempre capita ovviamente la rosa delle tematiche che i nostri ascoltatori ci propongono si amplia. Mario ci chiede alle 349-238-6666 se il tetto del 4% deve essere comprensivo di spread. Maximilian, visto che stavi introducendo anche la tua riflessione su questo punto, se vuoi cominciamo dalla risposta a Mario per poi magari commentare questa tendenza delle banche ad aumentare i margini richiesti ovviamente per il credito concesso. Allora, sul 4% il testo non è chiarissimo, però l'interpretazione di ABI e governo, e qui Roccia potrà aiutarmi. Roccia, glielo facciamo scrivere, insomma, lo facciamo scolpire sulla pietra. È che il 4% è un tasso finito, totale, compreso spread e qualsiasi altra voce, insomma. Gli spread più alti praticati dalle banche in questo momento, anche sui mutui agganciati al tasso BCE? Purtroppo sono molto elevati e forse abbiamo detto anche in precedenti trasmissioni, abbiamo parlato del primo mutuo agganciato alla BCE dello scorso ottobre, quello di BPM, che era 1,50, lo spread era un punto e mezzo per cento oltre il tasso BCE, che adesso è al 2%, ma scenderà probabilmente nei prossimi mesi. Questo 1,50 ci sembrava molto caro e purtroppo ci sbagliavamo, perché in questo inizio di 2009 tutti gli spread stanno aumentando, non soltanto quelli sul mutuo BCE ma anche sugli altri mutui fisso, variabile. Le banche in questo momento stanno chiedendo molto di più ai propri clienti, ai propri nuovi clienti, e quindi abbiamo spread che vanno dall'1,25 che segnalava Massimo in su, per cui sono relativamente elevati, perché qualche mese fa non era raro trovare spread al di sotto dell'1%, e questo è anche il discorso che facevamo in precedenza sulla surruga. Ci potranno essere molte surruga, molti cambiamenti in futuro, ma secondo me meno rispetto a quelli che abbiamo visto nel 2008, perché nel 2008 avevamo molti mutui non competitivi con spread particolarmente elevati, ed era relativamente semplice trovare uno spread migliore. Uno che aveva un 1,5 trovava abbastanza facilmente un mutuo con spread, con il ricarico della banca, dell'1%. Adesso è il contrario, ma abbiamo molti più mutui competitivi con spread anche inferiori all'1%, e questi non cambieranno mai in un nuovo mutuo se queste sono le nuove offerte delle banche. Ecco, questa è una riflessione che mi sento La di giriamo poter fare anche a Massimo Roccia, se vuole. Dottor Roccia, magari lei però ci può aiutare anche sulla questione del tetto del 4%. Gli ascoltatori ci chiedono, come dire, è un tasso lordo comprensivo anche dello spread? È un tasso assolutamente finito, quindi su questo non c'è nessun dubbio, e quindi il vantaggio è pieno da questo punto di vista. Sui mutui erogati parametrati al tasso BCE, sin dall'inizio era ovvio che, poiché questo tasso non è il tasso al quale le banche fanno provvista sui mercati dei capitali all'ingrosso, e mentre la provvista sui mercati all'ingrosso si fa all'Euribor, questo tasso deve essere swappato, come si dice in gergo, e lo swap costa all'incirca 80-90 basis point, il che significa che alla fine è difficile che anche un mutuo offerto parametrato al tasso BCE possa costare molto di diverso dal mutuo all'Euribor, perché la banca deve comprare all'ingrosso la copertura su quella raccolta. Diciamo anche che oggi il funding che le banche fanno a quel tasso rappresenta circa il 4% del funding complessivo a lungo termine, quindi è un provvedimento che ha un valore segnaletico, diciamo così, ma non ha un valore effettivo dal punto di vista della convenienza di acquisizione del capitale sul mercato all'ingrosso. Il motivo per cui gli spread stanno aumentando è perché costa di più il capitale, e quindi costando di più il capitale che le banche raccolgono sui mercati internazionali, costa di più anche quando lo stesso capitale viene offerto al dettaglio, diciamo così, nelle operazioni di mutuo. Prima avevamo dei tassi di raccolta che erano Euribor più 20 basis point, le banche raccoglievano sui mercati internazionali a questa cifra, oggi raccolgono sopra 100 basis point e purtroppo questo è un aumento del costo di raccolta che viene pagato anche dai clienti. Tra l'altro stavo guardando sempre nel confronto preparato a pagina 7 della guida del Sole 24 Ore, noi non appena partito presentammo, forse Maximilian c'eri anche tu qui a Salvadanaio, il mutuo della Popolare di Milano, l'euro mutuo che aveva questo spread dell'1,50% e ci sembrava elevatissimo, in realtà vedo che poi tutte le banche che si sono adeguate successivamente lo hanno rivisto e corretto a rialzi in misura notevole, si va dall'1,75 all'1,80, insomma fino al 2,5% dicevamo della proposta di una banca per un mutuo a 30 anni. Alberto da Parma, 800 24 00 24, il numero che lei ha fatto per intervenire Salvadanaio, invito anche altri ascoltatori a continuare a prenotare i propri interventi anche se abbiamo ancora pochi minuti, ci dica. Salve. Senta, io volevo chiedere questo, io ho un mutuo a tasso variabile con rata costante, volevo chiedere se anch'io rientro in questo tipo di agevolazione. Quando lo ha sottoscritto intanto Alberto? 2004. Perfetto, quindi dal punto di vista diciamo della cadenza temporale ci siamo. Tasso sì. Di partenza? Era sotto il 4 sicuramente. Benissimo, ma sì, diciamo che ragionevolmente si è mutato a tasso variabile in quel però periodo. C'era la rata costante, questo che non riuscivo Alberto, a capire. Da quello che abbiamo potuto capire fino a questo momento, teoricamente la legge non la esclude, Maximilian. La legge non la esclude, ma io direi, e anche Roccia in precedenza ce l'ha confermato, che dovremmo avere una conferma da parte del Ministero probabilmente con una nuova circolare su questi problemi da risolvere. Non lo esclude, secondo me è anche facilmente praticabile perché è molto simile a quei mutui, è un caso molto simile ai mutui rinegoziati a seconda della convenzione ABI-Governo. Non vedo perché i mutui ABI-Governo, che sono stati praticamente trasformati in mutui a rata costante, debbano entrare nel tetto del 4% e i mutui a rata costante veri e propri no. In questo caso, mi riferisco, lo dico chiaramente, signor Alberto, non calerà la sua rata ovviamente, perché lei ha fatto un mutuo a rata costante che rimane invariata per tutta la durata del mutuo. Casomai lei maturerà meno interessi passivi e quindi il mutuo si allungherà di meno, si accorcerà di più rispetto alla sua durata originale. Vabbè, però insomma nel lungo periodo si paga certo. Un po' meno e quindi anche certo. Questo è un vantaggio indiscutibile. Anche questo dobbiamo imparare a fare, a guardare al vantaggio nel lungo periodo, non stare a guardare. È chiaro poi che per quelle famiglie che hanno avuto la rata insopportabile negli ultimi mesi... Alberto lo sa bene perché ha scelto un mutuo a rata costante, infatti, che no. È proprio questa è la caratteristica, avere sempre la solita rata, si allunga o si accorcia a seconda dell'andamento dei tassi. Se deve essere bravissimo e telegrafico, Saverio D'Arezzo, l'ultima domanda di oggi. Ah, buongiorno. Pronto? Sì, Saverio, siamo con lei. Sì, buongiorno. Io ho un mutuo misto, nel senso che ogni 3 anni ho la possibilità, con una semplice variazione, di passare dal fisso al variabile. Sì. In questo momento io sono al variabile, una quota con uno spread dell'1,70. Sì. E tra gli interessi e lo spread, la rata di gennaio era al 6,08. Posso entrare anch'io nel bonus statale? Sì, Saverio. Attenzione, la prima rata, lei si deve ricordare che tipo di interesse ha pagato. E poi anche qui vale lo stesso discorso. È partito per con il fisso o con il variabile? No, con il fisso. I primi 4 anni era fisso. Poi ho la possibilità ogni 3 anni di scegliere... Guardi Alberto, io devo rispondere, devo rispondere a lei come a Saverio, Saverio come ad Alberto in precedenza e come ha risposto in precedenza anche Roccia. È una questione dibattuta, i mutui misti sono ibride, le forme ibride come la sua sono una questione ancora dibattuta, teoricamente non sono da escludere. Io mi sentirei da escludere un mutuo come il suo se lei in questo momento avesse il tasso fisso. In questo momento lei ha il tasso variabile, per cui probabilmente può rientrare, però dobbiamo attendere. Provo con Roccia negli ultimi 30 secondi di tempo che mi rimangono. Dottor Roccia, come risponderebbe a Saverio? Esatto, quello che è stato appena detto, perché siccome alla data, diciamo così, di scadenza del provvedimento, la condizione in cui si trova questo cliente è identica a quella di un cliente che ha un mutuo a tasso variabile, a nostro giudizio non ci sono ragioni particolari per escluderlo, quindi... da parte nostra, ma poi noi applichiamo la legge che viene determinata dal Parlamento, non ci sono ragioni per escluderlo, mentre invece confermo che sui mutui a rata fissa e durata variabile l'effetto del provvedimento non sarà quello di ridurre la rata, ma sarà quello di ridurre la durata, la quindi durata. Il cliente ne beneficerà in pieno, ma in termini di riduzione della durata. E che non è male, insomma, non ci possiamo lamentare di questo effetto. Allora, noi aspettiamo adesso il decreto dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo in attesa anche un'altra circolare del Ministero dell'Economia, Maximiliano. Non è molto chiaro, non è molto chiaro però, anche da quello che ha detto in precedenza Roccia, noi ci aspettiamo un chiarimento, un ulteriore chiarimento da parte del Ministero dell'Economia. Allora, io così l'ho detto solamente perché voglio considerarvi precettati, non appena avrò questi due documenti in mano vi devo rimettere insieme e tornare a spiegare tutte le novità ai nostri ascoltatori. Grazie a Maximiliano Cellino, grazie a Massimo Roccia per essere stato con noi. Devo chiudere rapidamente, ci sentiamo domani, buona giornata. Salva Danaio.